Bella prof, che schifo Garibaldi, vestito dai saldi, peloso come Garfield. Via la camicia rossa e dagli una t-shirt russardi su jeans cavalli. Sulla faccia lente a goccia Ray-Ban. E poi taglia la barba sta capoccia dai mam. Un unciacco da Jackie Chan gli dà più charme. Ora sì che Gercia i più fieri dei fan. Bella mondiale la seconda guerra, ma su sto libro è dato che abbiamo ingoiato merda. È regolare che non studia nessuno. Scrivi Italia batte il resto del mondo 18-1. I campioni siamo noi, siamo noi, perciò aggiungi pop pop pop pop po. Il capitano fa gol, bordello come Gogol. Storia XL e non una small. Pimpa! Questa è la storia, prof, la vera storia, prof. Lo dice uno che se esce dal culo fa plof. Bella, prof, pimpami la storia. Che storia! Bella, prof, pimpami la storia. Che storia! Bella, prof, pimpami la storia. Che storia! Bella, prof, pimpami la storia. Bella storia. Si stava meglio quando si stava peggiorando. Gli oppositori traditori, peggio di Ronaldo. Non li mandavano al fresco di una cella, ma al caldo dei Caraibi su navi di Jack Sparrow. Prof, il ventennio pimpamelo. Scrivi che i partigiani quel tempo lo vissero. Di relax in pedalò, piedi nudi nei sabò. 25 aprile, giorno dei caduti di Salò. Umberto di Savoia non andò via, ma che repubblica la gente vota monarchia. Non c'è partita tra re e democrazia. Come mettere la PSP col Game Gear e la Costituzione un CD con una traccia, l'ultima hit da spiaggia. Il nonno di Eminem minaccia tutta l'Europa, deve suonare il piano Marshall. Questa è la storia, prof, mi prende un sacco, prof. Tipo che quella di un cosacco di nome Popov. Bella, prof, pimpami la storia. Che storia! Bella, prof, pimpami la storia. Che storia! Bella, prof, pimpami la storia. Che storia! Bella, prof, pimpami la storia. Dalla mia storia cancella i fricchettoni, con la spada nel braccio, non nel cuore come Little Tony. Questi fattoni sempre sotto i riflettori. Scrivi che gli ippi se ne stavano zitti e buoni. Gli anni di piombo, le stragi, i sequestri. Ma no, non mi interessano argomenti come questi. Io di quei tempi voglio ricordare solo la liceale nella classe dei ripetenti. Così funziona, per fortuna fa trend. Il vecchio libro lo rottiamo tipo Duna Weekend. Adesso serve un finale potente che terrorizzi l'Occidente più dell'urlo di Chen. Da qui in avanti qualunque cosa succeda, scrivi che la colpa è di Al Qaeda. Me l'hai pimpata di brutto, prof. Vedrai patiti della storia fin dalla scuola media. Questa è la storia, prof, la vera storia, prof. E non c'è niente da ridere, non è Zeligov. Bella, prof, pimpami la storia. Che storia! Bella, prof, pimpami la storia. Che storia! Bella, prof, pimpami la storia. Che storia! Bella, prof, pimpami la storia. Bella storia! Ilaria! Che fai con quella chitarra? Sono venuto a riportarti nel 68. No? Io sto bene qui. Ho il mio cellulare, un sacco di scarpe bellissime, ho internet. A proposito, Ilaria, mi sono fatta il MySpace, Whale, Facebook. Tu ce l'hai in contatto MySpace? MySpace? MySpace?